un esempio vicino, tangibile, di cosa accadeva senza un movimento come quello valsusino, cioè quasi ovunque, l'avevo alle mie spalle. Se distogliendomi dalla contemplazione delle Alpi rivolgevo lo sguardo a sud, oltre il succedersi di crinali e fondivalle, potevo immaginare la Toscana e quindi il Mugello e ricordare le catastrofi ecologiche causate dai lavori dell'alta velocità Bologna-Firenze. Gli scavi del tunnel ferroviario avevano intercettato acque di falda. Nel 2004 si erano già drenati o dispersi, stando agli atti del processo a dirigenti del consorzio Cabet e subappaltatori, non meno di 44.933 milioni di metri cubi, quantità ben presto raddoppiata, triplicata. Le conseguenze? 57 chilometri di fiumi e torrenti essiccati, 37 sorgenti scomparse, 30 pozzi e 5 acquedotti prosciugati, falde acquifere abbassate di decine di metri, agricoltori e allevatori in ginocchio, comunità costrette per anni a rifornirsi di acqua dalle autobotti, pompe e chilometri di tubi installati per riportare in alto l'acqua precipitata in basso. Ma mentre quell'acqua prima scorreva in torrenti e irrigava la terra, ora finiva nell'acquedotto civile. Così la montagna restava all'asciutto, gli animali pativano la sete e scendevano in pianura. Per non parlare dello smaltimento abusivo di fanghi e rifiuti dei terreni inquinati, il processo Cavet era stato lungo e difficile, con un'alternanza di condanne e assoluzioni nei vari gradi di giudizio, e c'erano state altre inchieste, arresti eccellenti, uno strascico lunghissimo per un futuro ipotecato. Dal 2000 al 2007 erano morti 5 operai. Il più giovane aveva 23 anni, il più anziano 58. Altri due erano morti in un incidente stradale mentre tornavano a casa, stravolti dalla fatica e dallo stress di turni massacranti. Un camionista era morto mentre trasportava terra al cantiere. E anche qui collateral damage. Il 10 aprile 2001 Assuntina Spina, 84 anni, era stata agganciata e uccisa da un camion che usciva dal cantiere TAV di Sesto Fiorentino. Grazie all'alta velocità, avevano detto politici e manager, Bologna e Firenze avrebbero costituito un bipolo. Sarebbe stato tutto uno sfrecciare da una città all'altra, perché ormai erano vicinissime. Sarebbe stato come prendere l'autobus, prezzo del biglietto a parte. Lo spazio in mezzo, luoghi, storie, abitanti, disastri lasciati ai posteri, non esisteva più. La sera del 31 dicembre 2009 le due città avevano festeggiato insieme il Capodanno con un doppio concerto degli stessi artisti, un palco in Piazza Maggiore, l'altro in Piazza Santa Maria Novella, e gli artisti Lucio Dalla, Irene Grandi e Inegrita impegnati su entrambi grazie alla magia dell'alta velocità, come durante il Live Aid del 1985 quando Phil Collins aveva preso il Concorde per suonare prima a Londra, poi a New York. Fatte le debite proporzioni, ovviamente. Un evento costato €1 milione e trasmesso in diretta su Rai 2, il Capodanno dell'Appennino, lo avevano chiamato, ma dell'Appennino inquinato e condannato alla sete, degli operai morti per traforare la roccia, dei fiumi scomparsi, di quello non se n'era parlato. Dai, facciamo il trenino! Ufficianti erano Matteo Renzi e Museo del Fono a Bologna. Il primo era ancora agli inizi del cursus sonorum. Il secondo sarebbe presto scomparso dalla scena politica per via di uno scandaletto, una storia di peculato, truffa aggravata e abuso d'ufficio, reati per i quali avrebbe patteggiato 2 condanne. Del B, Polo, Bologna-Firenze, non avevo mai più sentito parlare, forse per mia distrazione, forse esisteva e io, pur vivendo a Bologna e andando spesso in Toscana, ne ero all'oscuro. Sulla vecchia linea, la direttissima, il viaggio da Bologna a Firenze durava 55 minuti. Con l'alta velocità ce ne mettevi 37. Il trascurabile guadagno di 18 minuti aveva cancellato l'esperienza del viaggio e letteralmente annientato il paesaggio. Il trasbordo di umani avveniva per 73 km su 78 in galleria, circondati dal niente. Ogni metro di quel niente era costato 78.000 euro e centinaia di migliaia di litri d'acqua. Contro l'alta velocità Bologna-Firenze non c'era stata lotta di massa su nessuno dei due versanti dell'Appennino e adesso era un fatto compiuto. Non lo prendi anche tu il Frecciarossa? E allora è acqua passata sotto i ponti, che senso ha lamentarsi? Se mettevi in guardia prima eri parte della solita Italia dei no. Se protestavi durante, quando i lavori causavano già problemi e danni, forse avevi ragione, ma ormai non si poteva lasciare le cose a metà. Se denunciavi dopo, eri uno che non sapeva lasciarsi il passato alle spalle. A Bologna, quelli che avevano protestato e cercato di mettere su comitati erano stati presi per i fondelli. Guarda lì che sfigati! Ma non hanno di meglio da fare! Ande bene la Urer! L'Emilia Romagna di fine Novecento aveva lo stomaco stantuffato di salumi e un intestino grasso dove avevano luogo fenomeni putrefattivi. Le feci, ma le odoravano di conformismo. Un tanfo pervasivo e rassicurante. La società era allineata, coperta, assuefatta al proprio modello di sviluppo. Mattone, porcilaie e cooperative di un rosso da tempo dilavato, tendente al bianco sporco. La base elettorale della socialdemocrazia, che in Italia per una serie di incidenti storici si era chiamata Partito Comunista, era composta sempre meno da operai e sempre più da ceti medi e medio alti, saliti sul carro ai tempi del boom, in sella alle vacche grasse. Una base spoliticizzata e codina che si dichiarava di sinistra per inerzia o per finta, in ogni caso senza alcun rischio né ricaduta pratica. Se il partito diceva che una grande opera era giusta, ed erano sempre giuste tutte, allora aveva ragione il partito, anche se non era più quel partito. Partito poi era una sineddoche, voleva dire un blocco di potere, in soldoni Lega Coop e tutte le sue diramazioni e derivazioni finanziarie. Se quando parlavi del diavolo spuntavano le corna, quando parlavi di cementificazione e grandi opere spuntava Lega Coop, con nomi del calibro di CMC, Cooperativa Muratori e Cementisti, sempre definita di Ravenna, in realtà una multinazionale che andava aprendo sedi in tutto il mondo, da Singapore al Sudafrica, dal Brasile al Massachusetts, dall'India all'Angola. Dei combattenti movimenti, operai e bracciantini, dello spirito della guerra partigiana, delle grandi occupazioni di terre degli anni 50, la società emiliano-romagnola conservava sì ricordi e reperti e ogni tanto li esibiva, ma come fossili, è una libellula dell'Ambra, non vola. Dai colli, guardando Bologna, si vedeva la torre Unipol, un'escrescenza color antracite, solo la torre Unipol. Mi divertivo a immaginarla in un futuro post-umano, come la statua della libertà nel pianeta delle scimmie, diroccata e storta, circondata dalle sabbie del tempo. Un giorno, mentre faceva la spesa in una coop del quartiere navile, la mia compagna aveva notato una guardia dell'antitaccheggio, un bove dall'aria minacciosa, camicia a maniche corte, braccia e nuca con tatuaggi nazi. Non solo aveva tatuaggi nazi, ma intratteneva alcuni clienti con discorsi nazi. Claudia era andata a protestare allo sportello per l'indecenza. Il Navile era un quartiere di immigrati, il più multietnico di Bologna, e la coop li accoglieva così. La tetta era caduta dalle nuvole, non per il nazi, ma per la protesta. Se n'era lavata le mani, dicendo che le guardie erano di una ditta esterna. L'outsourcing era una gran cosa anche per quello. Potevi sempre dar la colpa a qualcun altro. Dopo aver sentito il racconto, avevo mandato un sms al mio amico Wolf, annunciandogli che anche l'ultimo confine simbolico poteva dirsi superato. Del Seghino. Thank you. abitanti della zona Il Seghino, era una frazione di Monpantero a quota 729. La incontravi lungo la carrozzabile che da Susa si nervicava mettendo in fila decine di borgate e sparuti casolari, tutti affacciati sulla conca del Rocciamelone. La notte del 31 ottobre 2005 i notavi erano saliti al Seghino, suole a carro armato tra boschi di conifere, per difendere i terreni dall'esproprio. Avevano con sé decine di fogli, deleghe firmate dai legali proprietari dei lotti. L'alba del lunedì li aveva visti intenti a rafforzare barricate di massi, tronchi, ramaglie, rottami. Bloccavano l'accesso a un ponte sul rio Giandula, oltre il quale si biforcavano le uniche due strade che portavano i terreni. Poco dopo, una sentinella aveva avvistato forze nemiche salire. In basso, lungo la carrozzabile, un centinaio di camionette blu, una ruspa blu anch'essa per rimuovere le barricate e forse un migliaio tra poliziotti, carabinieri, finanzieri. Un fiume blu e nero nel ricordo dei presidianti. A guidare l'operazione era il vicequestore Salvatore Sanna, un cinquantenne calvo e rotondo, con baffi grigi e pappagorgia, per l'occasione arrivato in divisa. Il battaglione marciava verso l'alto. Il contatto era questione di minuti. Erano giunti al primo sbarramento ansimanti per la salita. Di fronte a loro 60-70 persone. In prima fila il sindaco di Chianocco Mario Russo e l'assessore alle politiche sociali di Avigliana Marina Mancini, entrambi con la fascia tricolore. Resistenza passiva. Mani alzate o cordone? Cordone, non passeranno. I notav avevano dalla loro tre forze, quella della ragione, quella della disperazione e quella della gravità, perché gli agenti erano in numero soverchiante, ma spingevano in salita. Intanto i rinforzi aggiravano il blocco di polizia al bivio di Urbiano, salivano per mulattiere vecchi sentieri partigiani e si univano al pacchetto di Mischia. Tra loro la sindaca di Condove Barbara De Bernardi, la sindaca di Borgone Simona Pognant e il sindaco di Villarfocchiardo Emilio Chiaverto, accompagnato da una vigilessa in divisa col gonfalone del comune. E poi Antonio Ferrentino, da anni amministratore bimbista del fronte notato, presidente della comunità montana e sindaco di Sant'Antonino. Alle pendici del Rocciamelone quel giorno qualcuno aveva contato 15 fasce tricolori, pubblici ufficiali contro pubblici ufficiali. La forza armata dello Stato mandata a sparagliare quelli che in teoria erano suoi rappresentanti. La crepa era visibile da mesi. Durante l'estate i consigli comunali di Bruzzolo, Borgone e Venaus si erano riuniti ai presidi, sui prati, dalle 7 del mattino fino a sera, per bloccare prese di possesso e carotaggi. Interrompere la seduta di un organo elettivo era un reato contro la pubblica amministrazione. L'articolo 340 del codice penale, usato come barricata. Ed ecco i sindaci, 4 mesi dopo, direttamente nel pacchetto di Mischia. Lo schieramento poliziesco, traspinte con gli scudi di plexiglass, periodica rotazione degli uomini a fare fronte, calci negli stinchi, minacce e bestemmie in più dialetti, ci aveva messo quasi 6 ore a guadagnare 200 metri, superando le prime due barricate. Ma al terzo sbarramento, quello sul ponte del Giandula, aveva incontrato una resistenza moltiplicata per 2, per 10, per chissà quanto, una resistenza inesplicabile. sconfiggere nemmeno spaccando teste, calpestando schiene, trascinando attivisti per le braccia, identificando e denunciando. Dal muro di corpi era partito un nuovo slogan, sconquassante per la psiche degli agenti. Faceva partire un canto, quel canto. Una mattina, e subito altre due, tre voci, mi sono svegliato, e a quel punto tutti si erano uniti, con voci rotte, dalla fatica dello scontro. Oh bella ciao, bella ciao. Come una miccia che bruciava fino alla detonazione, una detonazione umiliante per gli uomini in divisa. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor, e tanto forte era risuonato quell'invasor che per un momento la falange blu e nera aveva vacillato, e poliziotti e carabinieri erano indietreggiati di un paio di metri. Nel mentre, più in alto, nell'area indicata come Seghino Superiore, in OTAV avevano bloccato un altro schieramento di polizia. Una mossa semplice e brillante l'aveva suggerito un atleta di Susa, uno che aveva corso più volte il challenge Stellina ed era solito allenarsi in quei luoghi. Aspettare gli agenti in un punto dove il sentiero era ripido, stretto e cinto ai lati da muretti che costringevano alla fila indiana. I poliziotti erano giunti all'appuntamento stremati dalla salita, appesantiti dall'attrezzatura, impantanati nel loro malumore. Più in basso, al presidio di Bonpantero, in ottava avevano bloccato l'auto dei carabinieri che portava alla caserma di Susa due ragazzi appena malmenati e fermati. La celere aveva caricato per liberare la strada e c'erano feriti. Intanto in Bassavalle, fin dalle 11 di quella mattina, il movimento aveva occupato per protesta le stazioni di Bustolene e Borgone, bloccando i treni, compreso il TGV Milano-Parigi, e costringendo l'amministrazione delle ferrovie a sopprimere una quarantina di corse. Il treno Talgo Milano-Barcellona era stato deviato su Ventimiglia. Nelle fabbriche valsusine era in corso scioperi e serrate, tutta la valle era in tumulto e sul ponte si resisteva, sudati fradici si resisteva, coi calcagni indolenziti si resisteva. Verso le 17, quasi 10 ore dopo il loro arrivo, gli opliti si erano al fine arresi. Dopo una trattativa con Ferrentino, il vicequestore Sanna aveva dato l'ordine di ripiegare, pagando il prezzo di 50 denunciati e 10 feriti. Il movimento aveva vinto la sua prima battaglia campale. Scendiamo anche noi, abbiamo vinto. Scendiamo anche noi. Ma come? E se tornano? Non tornano. Hanno promesso a Ferrentino che se li lasciamo andare via senza problemi non ci riprovano prima di un'altra settimana. E noi ci fidiamo? Ferrentino si era fidato. E così tutti gli altri. Ma Sanna, disceso a valle con un diavolo per follicolo, aveva annullato ogni licenza e richiamato porte fresche. Col favore del buio, mentre gli ultimi notam se ne andavano sfiancati, nuove truppe avevano raggiunto Bonpantero e poi il Seghino, dilagando sui terreni dei sondaggi e prendendone possesso in piena illegalità, perché la procedura non poteva essere avviata dopo le 19 né in assenza dei proprietari. Sul ponte del Seghino. dalla storia. Le forze dell'ordine non facevano più paura. Lo sgombero della libera Repubblica della Maddalena, 27 giugno 2011. Marcegaglia aveva dichiarato: quando sento che per un'opera come la TAV si è creata la libera Repubblica della Maddalena, dove circa 150 persone bloccano l'avvio dell'opera e l'apertura dei cantieri, penso che non sia degno di un paese civile che in Piemonte ci sia un'area off limits è qualcosa di inaccettabile. Ogni sera c'era qualcosa, ogni weekend era una maratona di appuntamenti, mi aveva raccontato Filippo. C'era un numero di telefono del presidio, quando qualcuno ti rispondeva potevi chiedere se c'era qualcosa da portare su, se c'erano orari scoperti. I turni della cucina erano più o meno a rotazione fra i comitati, ma c'era chi da lì dentro non si schiodava mai. Io in settimana ci arrivavo non prima delle 7:30-8, era impressionante. Sai quei curvoni in discesa che da Chiomonte portano alla centrale idroelettrica? In quell'orario erano pieni di macchine parcheggiate. Si saliva alla Maddalena a piedi in 60, 70, 100 persone alla volta, a passo svelto, come se ci stessimo perdendo qualcosa di sensazionale. Era proprio così, calato il buio, era tutto un viavai di pile e voci e rumori di passi. Venivano su da Rivalta i ragazzi delle case popolari, ragazzi che conosco perché sono cresciuto nello stesso quartiere, gente che non avevo mai visto a nessuna manifestazione e che lì c'erano. La libera Repubblica ha davvero curvato lo spazio politico, ha dato la sensazione che lì stesse accadendo qualcosa di assolutamente inedito nel nostro tempo. Per me era come essere contemporaneamente in un passato glorioso e sull'orlo del futuro. Ci hanno lasciato là tutto quel tempo perché pensavano che ci saremmo stancati, e quando hanno visto che non c'erano segni di stanchezza e che diventava sempre più tardi per intervenire, quell'esperienza aveva già fatto il nido nel cuore di tutti, anche di quelli che non c'erano venuti. La resa dei conti era vicina, il movimento lo sapeva e si stava preparando. Giugno si era saputo che l'autostrada era di nuovo chiusa. alle 4, come poco più di un mese prima, i mezzi della polizia si erano affacciati sulla soglia della galleria della 32. Aveva eseguito la serie di posizioni yoga chiamata Surya Namaskara, comunemente tradotto con saluto al sole, e si era fermato nella posizione del Sirsasana, testa e avambracci appoggiati al suolo, schiena e gambe diritte a puntare il cielo, accanto a lui una bandiera Rotav e una collana di teste d'aglio. La sera prima, alzando lo sguardo sui boschi verso Giaglione, Turi aveva percepito qualcosa, una pulsazione, un'onda ricorsiva, un turbinio di malevole intenzioni, e proprio lui, uomo tra i meno freddolosi al mondo, aveva sentito un brivido e l'urgenza di sfregarsi le braccia, di battere a terra i piedi perché il sangue non si ritraesse dagli arti. Turi si era incamminato verso est, lungo la mulattiera che passava accanto al presidio. Pinze di ghiaccio stringevano le tempie. Aveva raggiunto un bivio, preso un sentiero in salita e pochi passi al di sopra del sentiero l'aveva visto. Un albero che urlava, un castagno antico dal tronco enorme, nel tronco una faccia, una smorfia scolpita da artisti inumani. Dietro e dentro quella smorfia vi era ogni insensatezza sotto il cielo, tutta l'inutilità immaginabile al mondo. Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Tornando al presidio, Turi era passato in cucina e aveva preso 7 teste d'aglio. Cosa ci devi fare? Aveva scherzato qualcuno. Hai visto un vampiro? Turi aveva atteso l'alba meditando, poi era salito sul cocuzzolo. Alle 5:30, il frastuono! Un escavatore rosso, seguito da ruspe e difeso dagli idranti della polizia, era uscito per sferrare l'attacco. Il bersaglio era la barricata Stalingrado, la più grossa, presidiata da decine e decine di Notav. La pinza dell'escavatore, simile alle fauci di uno spinosauro, aveva morso più volte la barricata, quasi travolgendo i corpi degli attivisti che gridavano al conducente. Facendo cadere le persone. Uccideteli tutti, aveva detto Arnaldo di Sitò. Dio riconoscerà i suoi. Nel mezzo del macabro assalto, tutti si erano scordati di Turi, che nel frattempo era sceso dalla postazione e, come sempre scalzo e inatteso, si era materializzato sulla corsia dell'autostrada, diretto in rapida falcata verso il sole ancora nascente, verso l'escavatore che si stagliava in controluce attorniato da sagome scure di sbirri. Gesù in un film di Godzilla, Gesù in un film di Godzilla. In una mano la bandiera Notav priva d'asta, nell'altra la collana di teste d'aglio. Van Helsing in un film western, Van Helsing in un film western. L'incedere di Turi era parso eterno. Metro dopo metro dopo metro di asfalto, metro dopo metro dopo metro di asfalto. nessuno, nessuno, se non quel gelo, quella densità invisibile e vibratile. I centurioni, stupiti, erano rimasti fermi finché un ordine non li aveva scossi e si erano mossi per intercettare l'intruso, placcarlo. Immobilizzarlo, portarlo via.